Una volta il cervello, secondo me, era il numero 10, e il numero 10, quando ero ragazzino io, era Rivera. E noi abbiamo in linea il vero numero 10, Gianni Rivera in linea con noi, benvenuto! Buongiorno a tutti, grazie a voi. Gianni Rivera è in linea con noi perché è anche testimonial di una giornata molto importante che si celebrerà il 10 marzo prossimo, è la giornata del rene, a cui appunto Gianni Rivera ha imprestato, no? È diventato testimonial di questa giornata, quindi scende in campo con noi per la prevenzione. Gianni? Sì, mi è sembrata un'ottima cosa, spero che di dare l'immagine giusta, perché è una cosa molto importante quello che si verificherà il 10 di questo mese, e quindi ho cercato di dare anch'io un mio contributo per vedere come sono possibili gli interventi prima del farlo troppo tardi, insomma. Quindi la prevenzione è una cosa fondamentale in tutta la medicina. Credo che il professore che ha individuato il mio numero, vabbè, ma questa era una cosa particolare. No, ma penso che ci creda. Ci creda davvero, è al 10 che ma ha dato il cervello. A me sembra che il cervello fosse il numero 10, ossia quello che era il numero 10, non so se sbaglio. Nel modo più assoluto. Sì, no, era così, sì. Certo Gianni, e poi buongiorno caro. Ciao. Non solo, ma se parliamo di prevenzione, appunto di muoversi prima, i numeri 10 che erano o che sono ancora in qualche raro caso fuori classe autentici, come è stato Gianni Rivera, la sentivano prima, sentivano l'erba crescere. Ah, lì era importante la prevenzione. Certo, la prevenzione dell'entrata dell'avversario. Capire prima quello che sarebbe successo dopo. È questa la differenza. Allora, il 10 l'abbiamo sistemato bene. Professore, ha passato l'esame, perché con questi due mostri sacri vicino, sì. Io credo. E poi c'è il cuore è il centravanti, facciamo Paolo Rossi. Va bene. Gianni Rivera, direi, che dice? Direi di sì. Abbiamo giocato in epoche diverse, ma se potendo potevamo funzionare tutte e due bene insieme. Mi sa di sì. Io i reni li vedrei come rispettivamente quella che era la mezzala e l'ala tornante. Il punto è che i reni fanno un sacco di lavoro, lo fanno 24 ore al giorno. Quello che noi cerchiamo di fare la dialisi è di fare tutto in 4 ore. Invece i reni lo fanno lungo tutta la durata della partita, la nostra partita e la giornata, e vanno e vengono, e non solo, ma costruiscono, perché il rene fabbrica degli ormoni, fabbrica l'eritropoietina, senza la quale non staremmo in piedi, fabbrica la forma attiva della vitamina D, senza le quali saremmo tutti rachitici. Quindi lavorano tutto il giorno, fanno un lavoro magari silenzioso, però costruiscono anche. Non so, io pensavo l'8 e l'11, per esempio. Potrebbe essere il 7, forse. Come? Allora era più il 7 del 7. Sì. Di fatica era più il 7, non solo, ma sento l'accento. I reni sono solo 2, ma quelli di fatica erano 3. Ma poi Gianni, noi abbiamo sentito l'accento bergamasco, siamo tornati ai tempi tuoi. Domenghini è uno sicuro. Io pensavo proprio Domenghini. Eccolo qua che c'era. Gli abbiamo rubato la battuta. Avrei potuto dire Bruno Conti, ma insomma uno di le mie parti deve dire Domenghini per forza. All'epoca, visto che giocavo io, era più facile individuare Domenghini. E la mezzala? Tardelli? Sì, lo possiamo acquisire, certo. Noi facciamo una nuova. Dopo, però andava bene anche in quella formazione, certo. Poi chi abbiamo? Qui stava il numero 6. Era l'altro centrocampista che faceva il marcatore del giocatore più importante avversario. Del Rivera avversario. Che potrebbe essere Trapattoni. Potrebbe essere Trapattoni. Vedi che quale formazioni maturano, caro professore. Prof. Poi abbiamo i polmoni. Sì. I polmoni. L'ha detto con meno enfasi rispetto al rene. Lei è un po' di parte. Che corrono per tutti, no? Sì. Che devono fare tutto il lavoro, perché corrono sempre. E fanno anche un po' un lavoro di interdizione, mi sembra di aver capito. Allora bisogna metterli lì in quei 3 posti. È meglio mettere i polmoni in quei 3 posti. I reni li mettiamo in difesa, perché sono anche difensivi. A chi ha pensato, professore? Ma io, qui c'è la questione dei mediani. A me pare che noi non abbiamo avuto dei grandissimi mediani, sbaglio? No, Trapattoni lo era. Trapattoni. E dopo, non so, Gattuso adesso potrebbe essere? Potrebbe essere. Magari, sono quei polmoni un po' anarchici. È più di quantità, sì. Però va bene. Perché Gianni, il polmone è soprattutto quello, di quantità. Io credo che il polmone va bene proprio... il polmone è più di quantità. E quindi, quindi io penso Gianni, che tra Pattoni e Gattuso andrebbero bene lì per i polmoni. Il Lodetti dei suoi tempi. Il Lodetti, Benetti. No, non ci siamo fatti mancare niente da quel punto di vista lì. Io i Reni li mettevo di più a centrocampo perché per difenderci, per esempio dalle sostanze tossiche, quindi per la difesa, insomma da tutto quello che ci può aggredire durante una giornata, ma poi durante la settimana, durante il mese, durante l'anno, c'è il fegato. E allora io 2-3 avrei messo il fegato, pensavo al fegato, diciamo Gentile, Cabrini, non so se sbaglio. Sì, va bene. Perfetto. Siete molto buoni con il professore, non lo contraddite quasi mai. È bravo lui o siete gentili voi? Io che non so di calcio. La lezione prima ci ha anticipato. No, io vorrei fare una cosa, se posso dire, tra calcio e medicina, che la medicina si impara, e tanti sono bravi medici, io conosco tantissimi bravi medici, di gente che si intende di calcio, io conosco pochissimi, perché parlano tutti di calcio, ma il calcio è difficile, non è come la medicina. Il calcio è difficile, parlarne va bene. Parlarne, se ne possono parlare tutti. Tanto se ne parli prima può anche andarti bene, dopo è facile per tutti, quindi va bene, se se ne parla. È quando si deve giocare che è più complicato. Che è un po' più dura. È un po' più dura. Un po' più faticoso. No, è complicato perché o si sa, o sai o non sai lì, e si vede. È molto più difficile della medicina di sicuro. Io adesso manca il portiere. Pensavo per il portiere che il portiere fosse il sistema immune, perché se noi abbiamo virus, batteri, tutte le persone che ci attaccano, quello che è importante è avere un portiere che ci difende, insomma, e quello è il portiere. A me pare che il sistema immunologico, il sistema immune è il portiere. E qui, vabbè, penso che abbiamo l'imbarazzo della scelta. Lì siamo largamente coperti. Lì non abbiamo nessun problema. È bello il sistema immunologico. In ogni epoca c'era... nella mia epoca ce n'erano addirittura due che erano quasi dello stesso livello, che in modo diverso lo erano, ed erano Zoff e Albertosi. E poi Zoff ha continuato. E poi oggi c'è Buffon che... Che è il nostro sistema immunitario. Sì, oggi. Anche se il sistema immunitario di Gianni Rivera per qualche buon annetto è stato il vecchio ragno nero Cudicini. Cudicini, ma dato che questi sono stati giocatori anche della nazionale, certo, abbiamo puntato più su questi. Certo, troppo giusto. Con Fabio noi eravamo garantiti, ma l'hanno convocato solo una volta nell'epoca in nazionale. Di Albertosi e Zoff. Certo. Professore, la nostra formazione? È completa. Ma a me pare, mi sembra una... Insomma, se l'ha provata un CT come Rivera, professore, mi sembra che lei sia promossa. E ci siamo dimenticati delle punte. Ecco. Le punte! Dove piazziamo le punte, professore? Gli attaccanti. Ma gli attaccanti fanno parte del cuore, sostanzialmente. Allora poi qui possiamo andare nelle sottigliezze. Allora il cuore, il sistema vascolare, tutto quello che fa muovere la circolazione, insomma, quello per cui alla fine bisogna cercare di segnare. Se il cuore si ferma, siamo fermi tutti. Mettete però due giocatori belli, se devono. Gianni, mettete dei giocatori belli, però anche di fisico. Abbiamo 4-5 giocatori nel cuore, visto che è il pezzo più importante, perché senza di lui non si fa molta strada. No, l'impressione anch'io. Quindi ci vogliono quelli che difendono e quelli che segnano, li mettiamo lì. Sì. No, che difendano, che corrono, insomma, perché il cuore deve portare il sangue dappertutto, quindi è giusto mettere, forse è meglio mettere i tre corridori, visto che il cuore deve raggiungere tutti gli organi e farli vivere. Certo, facciamo punte di movimento, va, facciamo. E poi le due punte che devono fare gol, perché le punte che devono fare gol sono fondamentali. Oggi l'abbiamo individuato, mancava Gigi Riva, che lo mettiamo, lo aggiungiamo. E allora abbiamo stravinto con una squadra così. una squadra che gioca per la salute e gioca in prevenzione comunque. Il nostro Doni, che mi sembra un grande giocatore che non si è mai mosso dall'Atalanta, ma io penso, Gianni, che avrebbe potuto giocare. Dove lo mettete? Vedi Gianni, anche i luminari, poi il debole per il campo. anche i luminari, parlava di Cristiano Doni, il debole per il campanile. Ma poi perché la... lui è di Bergamo. Certo, il debole per il campanile salta sempre fuori. Il campanile fuori. Viene sempre fuori. Ma non è bravo lui, non è bravo. Sì, anche... Bravissimo, certo. Anche vabbè, lo mettiamo in panchina, dai, va bene. Okay. Dai, una panchina per lui, eh? Va bene. Raccomandato dal professor Remuzzi. Va bene. Una raccomandazione importante. Assolutamente. Allora, io mi ridate i numeri dei reni che ho visto, che numeri avevamo dato? Ma io i direi reni? 8 e 11. E c'era quel 6 che ballava, Gianni? Il 6 era Trapattoni, sì. Il 6 va nei polmoni. Il 6 lo mettiamo nei polmoni. Nei polmoni, sì. Perché la puntata di oggi è proprio... E 8 e 7? Sì? E 8 e 7 vanno, credo, nei polmoni, non so se ho capito bene. Forse il 7 nei polmoni e questa ala tornante, queste persone che costruiscono, quelli che stanno a centrocampo e che sì. hanno anche non solo il fatto di correre, ma sono proprio persone che suggeriscono forse... Ma certo professore, se poi il 7 era Domenghini, di polmoni ne aveva una dozzina, grosso modo. Non avevamo problemi. Allora, noi abbiamo fatto la nostra formazione. E che formazione? Con quali si dice CT, Gigi? Sì, si dice CT. Che noi metteremo anche sulla pagina di Essere Benessere, quando si dice una squadra che lavora per la nostra salute. Noi ringraziamo Gianni Rivera che è stato con noi e ricordiamo che l'abbiamo proprio invitato perché spendesse, no, un invito per tutti noi a ricordarci della salute di questi reni che giocano ogni giorno. A proposito di partita, una partita importantissima. Il professor Remuzzi mi aveva raccontato una volta che se noi non avessimo i reni saremmo ancora negli stagni, così, dei rospi, negli sì, stagni. Sì, quello che aveva detto Homer Smith, che è una cosa bellissima, che se qui sulla Terra se non ci fossero i reni non ci sarebbero i filosofi, perché in realtà noi eravamo pesci e poi il problema di andare nella Terra, che è un ambiente ostile, era soprattutto il problema di trattenere il sodio ed eliminare il potassio. Nell'acqua è facile perché sodio dentro, sodio fuori, l'acqua è salata, il sodio è a portata di pesce, ma quando si trattava di andare sulla terra bisognava poterlo conservare. E allora si sono cominciati a sviluppare questi reni che erano molto primitivi nei pesci. Tra l'altro la cosa bella che sta succedendo in questi giorni è che certi piccoli pesci che hanno dei progenitori, cioè delle cellule capaci di riformare il nefrone, che è la struttura primitiva del rene, hanno delle cellule che assomigliano moltissimo a quella che proprio in questi giorni diversi ricercatori, soprattutto italiani, hanno trovato nel rene dell'uomo. Quindi in teoria anche noi ci sono rimasti questi progenitori che assomigliano tantissimo a quelli dei pesci, e se fossimo capaci di farli lavorare come lavorano nei pesci uno danneggia il nefrone, quindi questo piccolo rene, con un tossico, un antibiotico, la gentamicina, e quello lì si ricostruisce da solo. Se riuscissimo, quelle stesse cellule ce le abbiamo anche noi, però non sono capaci di riformare il rene dell'adulto. Se fossero capaci di riformare il rene dell'adulto, e stiamo lavorando per quello, avremmo probabilmente risolto tantissimi problemi, certamente quello della dialisi, certamente quello del trapianto. È il futuro, ma stiamo andando in quella direzione lì. Ma intanto noi guardiamo al futuro anche con un testimonial come Gianni Rivera e poi con la ricerca. Abbiamo qua il professor Remuzzi, quindi io vedo e prevedo un futuro roseo. Io non lo so, perché queste sono cose a lungo termine, bisogna stare molto attenti. Però... noi leggiamo ogni giorno sui giornali, trovato quello, trovato quell'altro, i malati vogliono sapere per me cosa hanno trovato, e dobbiamo sempre dirgli, ma veramente il problema è complesso. Quindi insomma, però certamente c'è una strada lungo la quale andare, è questione di quanto si lavora, di quanta gente ci si impegna, di quanti ci aiutano.